osa dirlo. Ah! Aspetta, che ho inserito pure a Fabio. Ma io non vedo niente perché vedo solo la tua fotografia. Vedo solo la tua fotografia, Antonio. Non si vede niente, niente. Non si vede nulla, Antonio. Sentiamo solo, comunque Angelo, praticamente, come stava dicendo Fabio. Ma Fabio non è... Aspetta che mo vi richiamo che state tutti e tre insieme, aspetta. Fabio? Adesso praticamente ho capito il sistema, praticamente per chiamarvi tutti in contemporanea dovete stare tutti quanti nella stessa... Antonio, non vedo perché sento solo la voce. Ma tu lo vedi Fabio? Perché io mi vedo soltanto diciamo in... Capito no, cioè... Ma scusate, ma questa è una riunione sulla disabilità, è una riunione sulla cucina, abbiate pazienza. Antonio, ma tu con questi casalirvi, cioè, noi qua stiamo parlando sulle tematiche della disabilità. Comunque aspetta, ragazzi, allora... Diciamo questa cosa così un attimo ad Angelo e poi facciamo un attimo, cioè chiudiamo poi la videoregistrazione e poi tra di noi approfittiamo solo questi 10 minuti, facciamo un attimo questa prova, diciamo su Hangout, cioè che io praticamente vi mando il link e voi vi collegate, va bene? Va bene. Praticamente niente, Angelo, ci sei? Angelo, non so se ci senti, comunque vabbè Angelo, un poco Fabio ti stava spiegando che il 3 dicembre in questa scuola a Pianura, siccome che è la giornata mondiale sulla disabilità, comunque Teresa voleva praticamente invitare un po' il tavolo rosso della disabilità che come un po' tutti quanti sanno, diciamo, è un tavolo che sin dall'inizio ha abbracciato la tematica senza comunque avere nessuna etichetta, diciamo, partitica e politica in particolare. Quindi, insomma, ci sarà questo evento il 3 dicembre, insomma, da come mi è parso di capire, insomma... Angelo, stavo spiegando il fatto dell'evento che ci sarà il 3 dicembre, la giornata della disabilità. Senti, però dobbiamo rifare il punto, che io stavo solo, mi sono trovato io, Antonio, solamente. Certo, no, stavo sintetizzando questo, Angelo. Allora, un po' diciamo il periodo che tu dalla web sei mancato, diciamo, Teresa, diciamo, ha accennato. A parte il fatto diciamo delle domande che abbiamo posto ai portavoce e che più tardi andremo anche a riportare diciamo sopra al meetup nel posto della disabilità. Poi diceva così, in merito a questa giornata mondiale della disabilità che capita il 3 dicembre, Teresa nella sua scuola, siccome insomma che c'è una certa sensibilità verso la tematica della disabilità e visto che anche che di recente comunque è venuto a mancare un bambino che era un suo che era diciamo questo suo alunno che comunque aveva anche questi problemi legati proprio alla disabilità, insomma lei pensava di comunque invitare il nostro tavolo o comunque qualche insomma componente del nostro tavolo al fine proprio praticamente di sensibilizzare diciamo insieme a loro c'è questa tematica, perché loro vorrebbero fare comunque questo, cioè vorrebbero comunque prendere queste sedie a rotelle e fare comunque mettere persone dell'ambito, diciamo, amministrativo, politico, per fare rendere conto, insomma, di che cosa significa poi dopo comunque stare, diciamo, su una carrozzina e andare incontro praticamente ai vari tipi di barriera, sia quella praticamente.